facevano i cavalli, non si arrivava mai. Veniva buio presto e presto era già tardi, la notte non finiva mai. Si mosse qualcosa, la loro vita cambiò. Era fermo davanti a una vetrina, lei si innamorò. Ma adesso tu chi sei? Perché non parli mai? Notte guardando le stelle, quella notte non finiva mai. Si guardavano negli occhi mentre passavano due guerre, si tenevano la mano per non lasciarsi mai. Ma dimmi tu chi sei, con quella faccia bianca e quegli occhioni blu che non si chiudono mai. È più di un'ora che mi guardi tu, chi sei? Io sono il cielo dietro all'angolo, sono un viaggio che farà, sono un progetto, sono un calcolo, chiudi gli occhi che ti innamorerà. Potrai sdraiarti sotto un albero, fare solo quello che ti va, giocare con il mio cuore elettrico, accenderti, spegnerti, accenderti, spegnerti, accenderti, spegnerti. Se ci fosse davvero un posto così bello, è chiaro che ci andrei. Partirei adesso, partirei scalzo, partirei mutando, anzi mi innamorerei. Ma non ho capito bene tu chi sei, con quella faccia bianca e quegli occhioni blu che non si chiudono mai. E invece è bello chiuderli di notte senza sapere se ti sveglierà, stando ad occhi aperti confondere la notte, andare in giro senza sapere dove vai. Invece tu non puoi, tu così bella tu, no, staccarti da quel muro e poi venire giù. Siamo cieli senza angoli, andiamo dove vogliamo noi, senza progetti come gli angeli, liberi. Possiamo salire sopra gli alberi, scendere. Con i cuori elettrici, accenderci, spegnerci, accenderci, spegnerci, accenderci.